Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba. Rocca Palomba, 28 giugno. Che veglia deliziosa a piè del maniero di Morgana. Stanchi della camminata di 8 ore, i soldati dormivano pei campi in un silenzio che mi parea d'esser solo. Queste campagne, come hanno fatto a diventare deserte? Si va delle ore senza vedere una casa, contadini non ve ne sono. I coltivatori stanno nei villaggi, grandi come da noi le città, vi stanno in certe tane, gli uni sugli altri, con l'asino e le altre bestie mendegne. Che tanfo e che colpe! All'alba muovono per i campi lontani, vi arrivano, si mettono all'opera che quasi è l'ora di tornare. Povera gente, che vita! Rocca Palomba è come tutti gli altri borghi, ma a vederla da lungi, adagiata su questo fianco del monte, mezzo nascosta nei boschi di mandorli, con quella strada che si curva dolce per farvi arrivare la gente senza fatica, promette di più. Trovammo gli abitanti in festa. Avevano mandato ad incontrarci un nugolo di cavalieri che vennero innanzi drappellando bandiere, levando grida, salute fratelli. Parevano gente del Medioevo rimasta viva proprio per aspettarci. I signori ci fecero gli onori del paese con modi non da persone accostumate a vivere così solitarie. Ma certe gentilezze si hanno nel sangue. Però sempre quella storia. Se un borgo ci accoglie bene, quello che viene dopo ci tiene il broncio. Poi l'altro appresso torna a farci festa. Qui c'erano i preti e il municipio alle porte. La banda suonava l'inno. Sulle alture ardevano fuochi di gioia. I signori si contendevano gli ufficiali. I soldati ebbero pane, cacio, vino, carezze, il paese in capo se l'avessero voluto. Io poi capito sempre in casa di preti. Questo che è qui mi ha voluto far toccare il Vangelo. Ma io, aperto il volume, lessi 2 versetti e glieli voltai tradotti lì. Allora il prete mi si buttò al collo e fece correre tutta la famiglia a conoscere il gran cristiano che aveva in casa. Desinai con loro. Vi erano delle donne, delle fanciulle, dei bambini, dei vecchi e dei giovani. Una tribù. Pareva il dì del Natale. Mi lasciarono venire in camera malincuore, in questa camera allegra dove è un letto che pare di gigli. E tu, coi tuoi peccati, oseresti andare fra quelle lenzuola. 30 giugno. 4 ore antimeridiane. Si parte. Ah, questa volta la marcia sarà lunga e pare che il cielo si vorrà fare di fuoco. I soldati vanno e vengono per le vie, sudici e cittadini se ne vengono pochi, scamiciati, indifferenti, alle finestre. Passano 2 preti salutando, se ne andranno in chiesa. Ecco la tromba. Chi l'avrà trovata questa bella Diana dei bersaglieri piemontesi? Certo un musico di animo allegro e ardito. C'è un pensiero così sano. Forse è del colonnello La Marmora. Scuote di dosso il sonno e la pigrizia, fa correre per i nervi un gran bisogno di fare. La intesero gli austriaci tante volte, la intesero i russi in Crimea. Noi l'abbiamo portata qui nell'isola vecchia di Vittorio Amedeo, dove già i monelli la cantano come cosa loro. Valle Lunga, 30 giugno pomeriggio. Ci hanno raggiunti parecchi amici da Palermo e dicono che vi arriva gente da porti di Liguria e di Toscana ogni giorno. Vi furono quasi dei guai per certa fretta messa ai palermitani di darsi al Piemonte, ma il dittatore tiene a segno tutti. Scrivo in una cameretta dove mi pare di essere un grillo in gabbia, ma se mi affaccio, veggo tutta la via grande e un'allegria di soldati rossi e gli ufficiali che fumano e bevono seduti innanzi al casino di compagnia. Come si fa presto a pigliare l'aria di questi signori, che forse stanno lì tutto l'anno a tirare giù dal cielo il tempo e la noia, a ridere e a giocare, e mentre che la terra frutta, essi fanno idilli e tragedie per donne. Ho inteso di bellissime storie verseggiate dal popolo, che qui è tutto poeti. Storie d'amore e di sangue versato per gelosie tremende. Santa Caterina, 1 luglio. Stamane, mentre il sole spuntava, camminavamo già da un par d'ore. Le compagnie cantavano canzoni popolari lombarde e toscane, i siciliani gareggiavano con un loro canto d'aria che cercava il core. Alla testa della colonna i genovesi cantavano l'inno alato di Mameli. A un tratto ruppero il canto, e lo cessavano tutti man mano che arrivavano a un certo punto della via. Quando vi arrivai anch'io capii. Da quella apparita si vedeva laggiù, laggiù, nero sterminato, crescente all'occhio e alla fantasia, l'Etna, che con l'ombra sua si protendeva su mezza l'isola e sul mare. Luglio. Fatti i conti, dei siciliani che ci seguirono da Palermo in qua, un mezzo centinaio se ne sono già andati, alcuni portando via anche le armi. Sono contadini che si accendono come paglia e presto si stancano. Il consiglio di guerra li condanna a morte. Si appiccano le sentenze come lenzuola alle cantonate, ma si lascia che i condannati se ne vadano alla loro ventura, purché lontano. I buoni sono quelli delle città, e i palermitani, giovani colti, amorosi, pieni di rispetto. Malveduti sono alcuni ufficiali che paiono chierici. Caltanissetta, 7 luglio. Feste da fate. I viali del giardino parevano di fuoco. Il verde degli alberi e delle spalliere luccicava di splendori metallici. Le donne di Caltanissetta coi mariti, coi fratelli, con noi, parevano una famiglia innumerevole che si rallegrasse là dentro di qualche lieta avventura. Rinfreschi, vini e dolciumi, tanto da satollare per una settimana tutti i poveri della città. Castro Giovanni, 10 luglio. Ma perché ci hanno fatti camminare traverso i monti per sentieri che è miracolo se nessuno vi lasciò la vita? Vero è che abbiamo veduta la pingue campagna, una coppa d'oro. Quei bovi che pascolavano per le praterie, fiutavano nell'aria il nostro passaggio e la fila interminabile di rosso dava loro negli occhi spaventati. Un toro inseguì due dei nostri sbrancati e vaganti, forse in cerca di acqua. Li vedemmo correre su per un'erta, con la formidabile testa del furioso animale due passi dalle reni. Un d'essi poté arrampicarsi a un albero, l'altro tirava sempre a correre su di una ripa dove il toro lo avrebbe arrivato, se non che un boaro. Galoppando curvo, che la sua testa era tutta nella criniera del cavallo, giunse con l'asta calata e vibrò nel fianco alla bestia come un lanciere. Il toro fuggì muggendo, lanciando zolle, flagellando l'aria con la coda rabbiosamente. Leonforte, 11 luglio. Il capitano Faustino Tanara, solo, ritto su di un poggiolo, guardava coi suoi piccoli occhi l'orizzonte largo. Pareva un aquilotto che stesse cercando una direzione per provarsi a volare. Sulla sua faccia ride l'anima franca e ardita, ma non vi è mai allegrezza piena. Eppure la certezza di essere amato da tutti dovrebbe fargli gettare sprazzi di luce dal cuore. Che dolce natura! Il più meschino soldato gli è carissimo, persin Mangiaracina, un siciliano di non so che borgo dell'Etna, testone che pare un maglio in una parrucca fatta di pelle di orso, e ha gli occhi sotto certe grotte da dove guardano come due malandrini appostati. Un dì vidi Tanara in collera, stanco di mangiaracina che butta le gambe come un ippopotamo e fa rompere il passo alla compagnia. Gli prese l'orecchio e pizzicandogli disse: «Ma tu perché ci sei venuto con noi? È l'Italia che se ne deve fare della carnaccia tua». Mangiaracina gli si riempirono gli occhi di lacrime guardando il suo capitano come fosse stata la Madonna. «Umile e dolce», rispose, «Cappedano, ci agiono ancora anch'io». Tanara gli strinse la mano. Egli ha 30 anni. In battaglia si trasforma. La sua persona nervosa guizza, scatta, squarcia come saetta nelle nubi. Allora tutti lo ammirano. Si teme di vederlo l'ultima volta. Dopo si rincantuccia malinconico. Non gli si può cavare una parola. San Filippo d'Argiro, 12 luglio. Partimmo da Leonforte col fresco delle 2 dopo la mezzanotte e camminammo lenti sino alla levata del sole. Allora ognuno diede una scossa come fanno gli uccelli e volò con l'anima per gli orizzonti dell'isola. Le solite vedute. Boschi di mandorli come da noi i castagneti, terreni che dovrebbero gettare oro. Qua e là gruppi di contadini che ci guardavano accidiosi e pensando chissà che cosa di noi. San Filippo è una cittadetta gaia, e ci si dice che di qua al mare sia la più bella parte dell'isola. Arrivammo che una processione rientrava in chiesa da non so che giro fatto per chieder pioggia. Corre voce che una colonna di regi usciti da Siracusa ci attendono verso Catania. Deve essere vero perché si partirà fra poche ore. Una battaglia laddove pugnarono gli ateniesi di Nida, o ai piedi dell'Etna dove si svolsero tanti drammi delle guerre servili. E Garibaldi non è con noi. Ma se nel forte del combattere arrivasse da Girgenti Bixio come un uragano. Paternò, 14 luglio. Da Adernò a Paternò, una camminata in faccia all'Etna che da Santa Caterina non si è più perso di vista. Per la falda che pare si rigonfi infinita, trionfano boschi di verde cupo, dai quali si libera e si lancia il gran monte, brullo fino alla cima, bianco di neve, alto che il fumo del cratere Vigalla sopra acidioso, come se non potesse salir di più. Dorme il gigante, che conta gli anni dalle sue furie e dai popoli che ha disfatti. Sono tanti e che storie. Eppure spesseggiano nelle macchie i villaggi, lasciando indovinare da lungi la gente felice che deve abitarli. Catania, 15 luglio. Credeva di entrare in una città di ciclopi, ma appena oltre la porta minacciosa per i massi di cui è formata, ecco la via lunga fino al mare, ampia, lavata, fresca come vi dovesse passare la processione del Corpus Domini. Eravamo un drappello che precedemmo la brigata, e i primi fiori li avemmo noi. In piazza dell'Elefante una sentinella chiamò la guardia. 10 o 12 giovinotti balzarono a schierarsi, presentarono le armi facendo le facce fiere. Staremo qua riposando alcuni giorni. I borbonici di Siracusa e di Agosta non si sono mossi, ma bisognerà vegliare perché siamo in mezzo ad essi e a quei di Messina. 17 luglio. Ho belle visto. Questi per noi sono gli ozi di Capua. Catania ha dei profumi che addormentano. Siede come Venere nella conchiglia, spossata dal godimento di un cielo, di una campagna, di un mare, che sembrano fondersi insieme in una sola vita per farle delizia. Si sente una soavità di aura anacreontica su vino e rose. Lampeggiano gli occhi delle donne uscenti dai templi come dee, con le vesti bianche, i manti neri di seta fluttuanti dalle trecce per le spalle. E noi guardiamo. Noi beviamo l'incanto ammirando. Da Milazzo a Messina. Dov'è? Che cosa è Milazzo? Sono corso a vedere la carta. Eccolo tra Cefalù e il faro. Una lingua sottile che si inoltra e pare che guizzi nel mare. D'oggi in là, quel po' di terra scura col castello di cui sento parlare, non mi verrà mai vista con la fantasia tra le acque azzurre, senza che la visione si mescoli di file rosse correnti come rivi di sangue in mezzo al verde dei fichi d'India, per i canneti, nel letto secco dei torrenti, sulla riva del mare torrida e bianca. Medici, Cosenz, Fabrizi, profili austeri balenarono qua e là, non li conosco ma ormai gli eroi so immaginarli, so come Garibaldi li fa. 27 luglio. Arrivarono polverosi, ma abbaglianti. La banda in testa suonava una marcia guerriera. Bixio, sotto uno stallone pece che gli brillava sotto, leggero come una rondine, la faccia bruna incorniciata dal capperuccio candido, pareva un emiro che tornasse da una spedizione misteriosa nel deserto. Volteggiò spigliato con gli ufficiali che aveva dietro, si piantò in un punto della piazza in faccia all'elefante di pietra che sta là, sonnolento. A un suo comando, la fila si spezzò, i battaglioni piegarono, voltarono rapidi, giusti, attelati, e si fermarono in un bell'ordine di colonna che pareva fatto di soldati messi là, uno alla volta. Questo è un reggimento da presentargli le armi i più vecchi del mestiere. Ne parlai con gli amici e mi hanno detto che attraverso l'isola Bixio non li ha lasciati riposare un istante. I soldati per le marce forzate furono più di una volta sul punto da mutinarsi, ma sì, chi oserebbe essere il primo con quest'uomo che non mangia, non dorme, non resta mai? Non saprei perché, ma egli entrando in Catania non pareva quasi contento, anzi, gli cresceva quella minaccia che ha sempre tra ciglio e ciglio. Chissà come vada d'accordo con quel capitano che gli vidi a lato e che deve essere suo capo di stato maggiore. Colui sta a cavallo con le gambe spenzolate come fossero di cenci, ma nella vita pare corazzato. Ha i capelli a lucignoli scialbi come la pelle. Guarda che pare lì per addormentarsi, ma sotto i mustacchi, uno più lungo dell'altro e cadente, la bocca ride sempre d'un riso sprezzatore, mentre l'orecchio pare teso ad ascoltare rumori misteriosi, lontani. 28 luglio. Acireale, Giarre, Giardini. Tre cittadette che il mare le vuole e l'Etna le tira a suoi piedi come schiave. Si va e sempre questo monte che non finisce mai di mutare aspetti. Sempre quelle sue falde fresche di ombre che uno le gode con gli occhi, tirando innanzi a camminare divorato dal sole nella strada gialla, polverosa di lava, sulla quale danza un calore che a stender la mano par di palparlo, rete di metallo infocato. A destra, fin dove può l'occhio, un azzurro di mare che non somiglia punto a quel di Liguria né a quello là di Marsala. È il nostro bel mare, per tutto, ma qui ha trasparenze profonde, lontane, direi successive come i cieli di Dante. E Sant'Alessio è un fortino lì sulla via, fatto anticamente per dar da ridere ai barbareschi, non v'è una guardia. Ma quel vecchio cannone da quella balestriera come parca che ammiccasse. Raveggi, passando meco a piede del forte, mi disse: «Ecco il mio sogno. Avere 40 anni e più ed essere messo qui con 4 veterani slombati. Me ne starei sdraiato ora su d'uno spalto, ora d'un altro, guardando il mare attento attento, invecchiando adagio adagio, bevendo a sorsi la vita, il vino e le fantasticherie della mia testa. In riva al mare, silenziose, gravi, fumose come avessero pensieri tristi, le navi napolitane vanno e vengono per lo stretto. Passare all'altra riva, ecco il problema, ma il dittatore vive». 27 luglio. Il dittatore se ne sta chiuso in una cameruccia a tetto, là nella torre, e intorno a quella campano i carabinieri genovesi. Non sono più i 47 di Calatafimi, drappello insuperabile per coscienza, ardimenti, virtù militare, ma quelli hanno formato il quadro di un battaglione che a Milazzo corse il campo come un uragano e lo tenne dovunque apparve. Ne sono tutti liguri. Le loro file si sono aperte a giovani di ogni parte d'Italia e quei 5 o 6 sopravvissuti all'eccidio di Sapri, che appena liberati dalle fosse della Favignana vollero vestirne l'uniforme, portarono nel battaglione un alito della grande anima di Pisacane. Fiumara della Guardia, 9 agosto. Ieri sera, quando fu ben buio, 20 barche si staccarono dalla riva di Torre del Faro, la prora dritta alla Calabria. Portavano ognuna 10 o 12 uomini armati. Sull'ultima, ritto, gli accompagnava il dittatore. Si inoltrarono nel silenzio dello stretto e presto furono perdute di vista. Le navi da guerra borboniche erano state sino a sera incrociando là in faccia. Alcune si erano poi andate a porre dietro il promontorio di Sicilia, in quell'ombra vaporosa che, di giorno, veduta di qui, mi pare un sogno sereno avuto da fanciullo. Ma due erano rimaste nel bel mezzo del canale. I nostri, in folla alla riva, stettero con l'agonia di sentire fra momenti l'urlo dei compagni sommersi, o forse qua e là per lo stretto sarebbero scoppiati gli incendi delle navi nemiche. Ma verso le 11 il forte di Scilla balenò. Una cannonata destò tutti i campi delle due sponde. Poi si intesero delle schioppettate là nell'oscurità lontana. Dopo un silenzio come quando è calato il coperchio di una sepoltura. Ora si sa quel che avvenne. A mezzo allo stretto, il dittatore, accertato che le barche non avevano più nulla a temere delle navi borboniche, lasciò che andassero innanzi, designandone per guida una dalla vela latina, e tornò di qua. Su quelle barche navigavano Alberto Mario, Missori, Nullo, Curzio, Salomone, il Fiore, dei nostri, con 200 volontari scelti comandati dal capitano Racchetti della brigata Sacchi. Due barcaglioli che v'erano mi narrarono, e narrando tremavano ancora che quando si avvidero del passo cui i nostri si andavano a mettere, essi non volevano più remare, ma costretti, piangendo, pregando Maria e i santi, tirarono innanzi con quei demoni. Nel buio alcune barche si staccarono dal gruppo e si smarrirono verso Scilla. I napoletani dal forte, avendole scoperte, tirarono quella maledetta cannonata appunto mentre il resto della spedizione toccava il punto designato, vicino all'altro forte di Torre Cavallo, e sbarcava scale, corde, arnesi di ogni fatta per darvi la scalata. Nacque un po' di confusione. Le barche pigliarono il largo veloci, lasciando i nostri sull'altra sponda, nelle tenebre, senza guide, e alle prese con le pattuglie napoletane uscite dal forte. La nostra brigata era venuta qui per essere trasportata in Calabria, se l'operazione di ieri notte riusciva. Occupiamo il greto di un torrente, allo sbocco di una vallicella allegra e ben coltivata. Nessuno ha mosso una pietra. Non si vedono quei lavoretti che fanno i soldati per accomodarsi il campo dove sanno dovere stare. Tutti si tengono come uccelli sul ramo, pronti a volare via. Fiumara della Guardia, 10 agosto. Fra noi e i 300 nostri, il mare, le navi e i borbonici dell'altra sponda. Sono là, in faccia, su quella costa di monte in quel verde pallido, sopra Villa San Giovanni, ma lontani, in alto. Vediamo del fumo che cresce, si allarga, si fa fitto, si sentono le schioppettate sorde. Si indovina col cuore che i nostri assaliti si difendono, superbi di combattere, 300 al cospetto di tutti i reggimenti accampati di qua, da Messina al Faro. 11 agosto. Una sfilata di ufficiali. Quel colonnello quadrato che, camminando, tentenna la testa grigia come minacciasse qualcuno dinanzi a sé. È un inglese che con la carabina coglie dove vuole. Si chiama Perth. Non ha un comando, ma tiene sempre dietro al corpo più vicino al nemico. Porta i suoi 50 anni come noi, i nostri 20, fa la guerra da invaghito, tira in campo come una caccia di tigri e ama l'Italia. L'altro che gli somiglia un po' è il maggiore Specchi, artista e soldato, asparso del proprio sangue dovunque sia combattuto per la libertà, in Italia e fuori. Non è mai stato al fuoco che non abbia toccata una ferita. L'ultima l'ebbe a Milazzo. Il dittatore gli vuole bene come un fratello, perché hanno vissuto insieme per il mondo, dopo la caduta della Repubblica Romana, adorando e sperando. ho riveduto il maggiore Vincenzo Statella con un taglio di traverso nel naso che rialza la fierezza impressa sulla sua faccia. Un ufficiale ungherese trottava da Torre del Faro, portando non so che ordini del dittatore. A un certo segno si fermò a piedi una batteria, chiedendo qualcosa a Statella che era lassù. «Statella?» O non badasse o non capisse, l'ungherese gridò. Statella rispose stizzito. 448 fu combinato lì per lì di scambiare due colpi di sciabola. Statella ne toccò, l'ungherese tirò avanti al suo destino. Questo figlio di principi, che ha il padre generale borbonico dei più vecchi e dei più devoti, capitò anelando a Palermo ad abbracciare il dittatore, il suo vecchio capitano del 1849, venuto a liberargli l'isola. Chi l'avrebbe sognato? E di Siracusa. La sua nobiltà l'ha scritta in fronte, ma il suo coraggio. Ne parleranno i lancieri borbonici potuti scampare a Milazzo da Missori e da lui.